Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Eccoci, 16 e 33 minuti con la mia aerea orrenda, Nova Lab 24, la voce dell'innovazione, Luca Tremolada e Luca Dello Jacopo. Il 33 certo non aiuta. No, però sono 131 le nazioni del mondo. Di queste 131 nazioni nel mondo, ben 111 che cos'hanno? Hanno Facebook come primo social network. E parleremo proprio di questo. È una domanda chiaramente a trabocchetto, sapevamo già la risposta, però insomma proviamo a rifare il punto su questo grandissimo social network che parla la lingua di 111 nazioni, che non è male. E racconteremo anche di un altro social network in Italia che è molto grande però è molto poco noto. Cioè? Lo diremo dopo. Allora le news. Milioni di iPad venduti in 80 giorni. Apple ha appena tagliato un altro traguardo a poche settimane dal lancio negli Stati Uniti del suo tablet. Anche gli sviluppatori software hanno contribuito al successo di iPad con 11.000 applicazioni per giochi, intrattenimento, informazione, servizi business. Google punta sulla musica. Il motore di ricerca collabora con le etichette discografiche per lanciare un servizio di download entro la fine dell'anno. E nel 2011 è in cantiere un progetto per ascoltare le canzoni in diretta su internet pagando un abbonamento. Google prepara la sua sfida ad iTunes, la piattaforma software di Apple per scaricare brani e altri contenuti multimediali. E nella contesa entra anche Microsoft. La versione inglese del suo motore di ricerca Bing ha appena incluso l'ascolto di tracce musicali su internet. Passiamo alle scienze. La gratificazione delle opinioni positive di altri genera una risposta simile a ricompense emotive più elementari. I ricercatori dello University College di Londra hanno chiesto a un gruppo di volontari di ascoltare alcune canzoni e commentarle con esperti musicali. L'analisi attraverso risonanza magnetica funzionale ha rivelato che le aree del cervello attivate dai pareri positivi degli esperti coincidono con altre forme di gratificazione. Quindi 3 milioni di iPad in 80 giorni, come il giro del mondo. Sono tanti, sono tantissimi. Cioè... Sì, è straordinario anche poi in così poco tempo. C'è da dire che io sapevo che 2 di milioni di questi 3 vengono dagli Stati Uniti. Sì, e quindi anche poi l'arrivo in Europa ha certamente accelerato l'interesse e poi anche tutto il discorso che c'è stato in questi giorni, no? Cioè, quindi anche su internet. È anche probabile che, non so, l'Asia abbia altri modelli, altri leadership culturali, altre... Vabbè, comunque, insomma... Sì, magari ci sono delle differenze culturali, però ci sono dei fenomeni che uniscono tutto come anche Facebook, di cui parliamo oggi, che attraversa le frontiere. Era un pretesto per parlare di un altro fenomeno globale come Facebook. Noi abbiamo in collegamento Vincenzo Cosenza. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Dove si trova? Perché mi hanno detto che si trova in un luogo lontano e nascosto. Se vuole, no, sono purtroppo da un cliente in riunione, mi sono staccato un attimo. Va bene, mandiamo la scheda sulla mappa che ha realizzato Vincenzo Cosenza, poi ne parliamo con lui. Sull'impero di Facebook non tramonta mai il sole. È il social network più frequentato in 111 nazioni del mondo. Nella partita di risico globale ha sconfitto grandi rivali come MySpace e piccoli concorrenti locali. È diventato un regno che supera confini culturali e nazionali. Per il 2009 il suo fatturato è stato stimato in 800 milioni di dollari. Entro la fine dell'anno potrebbe raggiungere un giro d'affari pari a 1 miliardo di dollari. Ad analizzare l'evoluzione delle reti sociali online è stato Vincenzo Cosenza, responsabile della sede romana di Digital PR. Attraverso una mappa ha descritto la rapida avanzata di Facebook, ma dalla cartina è evidente la resistenza di alcuni bastioni, come la grande muraglia dei social network cinesi. Allora, questione di numeri, ma i numeri sono importanti, soprattutto per una trasmissione che fa tecnologia. Vincenzo Cosenza, ma le nazioni nel mondo, pronto? Sì. Sono 111 come, anzi sono 131 come ha scritto il buon Dello Jacopo o 194? No, come scritto all'interno poi dell'analisi dei paesi considerati, credo, perché ce ne sono alcuni. Metti le mani che non sono, no, ma ce ne sono alcuni che non sono stati considerati in Africa. Okay. non ci sono, alcuni paesi non sono stati inclusi all'interno del purtroppo i dati disponibili sono quelli relativi a 131 paesi e ci mancano chiaramente quelli, tutti quelli del continente africano, per appunto problemi di reperibilità di dati e in alcuni casi anche di disponibilità di accesso alla rete. Ok, quindi ritorniamo: 194 i paesi, 131 quelli che hanno dei dati confrontabili, e di questo 131 nazioni, 111 vivono, utilizzano Facebook. Esatto, in cui Facebook è dominante, quel social network preferito. Ecco, ma all'interno poi dice, guardando la mappa che ce l'ha di fronte Luca Dello Iacovo, cioè dov'è che si concentrano? Facebook appunto è un po' capillare nei paesi, soprattutto a predominanza di lingua inglese, chiaramente. Diciamo che facciamo prima a parlare dei posti in cui Facebook non è presente, quindi dove non riesce a penetrare, come i paesi dell'ex Unione Sovietica, che preferiscono ancora social network locali come Odnoklassniki o Vkontakte, oppure in Ungheria, Polonia, Olanda, o ancora in Cina, dove appunto per problemi anche e in posizioni tipo politiche, diciamo, Facebook non è il social network dominante. Quindi ci sono differenti nazioni del mondo che hanno creato dei loro social network, però quello che ha fatto Facebook è stato di diffondersi in tutto, è l'unico che attraversa tante culture, tanti confini, e tra l'altro poi anche di recente è stato rivalutato, nel senso che non è noto, Facebook non ha mai comunicato il suo fatturato, però secondo le stime più recenti nel 2009 avrebbe guadagnato 800 milioni di dollari, e quest'anno poi le previsioni, secondo quello che ha detto Mark Zuckerberg, che è il fondatore, sono tra 1 miliardo di dollari e 1,2 miliardi di dollari, e questo per un'idea che all'inizio era soltanto un gioco, perché Facebook è iniziato come un gioco. Esatto, forse la più grande capacità di Zuckerberg è stata proprio quella di far cambiare pelle a una creatura che nasce per scopi ludici e ha un ambito veramente molto limitato come quello dei college americani, per poi farli cambiare pelle, farlo diventare quindi il social network più gradito dalla maggior parte delle persone, però, non senza chiaramente problemi con gli utenti, sicuramente. Ecco, però Cosenza, cioè la domanda un po' che ci stiamo ponendo un po' tutti è: ma queste cifre, queste previsioni sono reali o sono un po' montate? Insomma, nel 2000 veniamo dalla bolla di internet dove si sparavano cifre altrettanto mirabolanti. Beh, il dato del 2009 è un dato reale, effettivamente. La proiezione è quella riguardante un billion e due di quest'anno, sul quale francamente non avrei grandi dubbi, visto che comunque effettivamente un servizio web con un così alto numero di utenti non si è mai visto. Anche perché, dimmi se dico una stupidata, però insomma, in un momento in cui il mercato degli inserzionisti della pubblicità fa molta fatica, o quantomeno c'è poca pubblicità in giro, ci sono poche aziende disposte a investire in comunicazione, o quantomeno investono molto meno rispetto agli anni scorsi, Facebook, insomma, il dato di Facebook risalta in particolare evidenza. Sì, esattamente, sono completamente d'accordo, sia per un tipo di, se vogliamo, di advertising un po' più nuovo rispetto al classico banner advertising, ma anche per, secondo me, enormi potenzialità ancora inespresse, al quale Zuckerberg non aveva mai pensato in passato, come quella dei social games, sui quali non solo transita della pubblicità, ma è possibile monetizzare anche attraverso i cosiddetti virtual gift o attraverso la cosiddetta virtual currency, la moneta virtuale. Per social games intendiamo Farmville, per esempio, esatto. Gioco dove le persone diciamo coltivano un terreno, acquistano dei beni digitali, vengono chiamati, e quindi sono per esempio i semi o sono gli alberi, e questo acquisto, diciamo, viene fatto con monete guadagnate attraverso la coltivazione delle piante, oppure è possibile possibile fare, comprare queste monete con soldi veri, esatto, attraverso poi un pagamento elettronico, e questo, esatto, ha generato anche un'economia, una vera e propria economia. Esatto. In Estremo Oriente è già un fenomeno consolidato ed è la principale fonte di fatturato dei social network, con Facebook invece è ancora un fenomeno in espansione. Io volevo chiamare in collegamento Sergio Maestrello, che è con noi, coordinatore editoriale di Apogeo Online, blogger e giornalista, ma soprattutto esce in edicola con un nuovo libro, La parte abitata della rete. Buongiorno. Buongiorno a voi. Il libro però è Giornalismo e Nuovi Media. Com'è il titolo giusto? Giornalismo Nuovi Media. E La parte abitata della rete invece era? Ma sono inventato. È quello precedente, ecco, vedi? Non avevo studiato bene, è sempre colpa mia. Allora, Maestrello, una cosa da capire, cioè, abbiamo visto come si sta strutturando la mappa e la geografia di Facebook. Qual è la tua idea sulla bolla pubblicitaria, che io dico bolla, ma poi in realtà non è così, sui numeri che stanno uscendo intorno a questo social network? Ma a me sembra interessante a prescindere, nel senso che sono persone che si stanno avvicinando a questi sistemi, stanno imparando a condividere in un modo o nell'altro. Insomma, da questo punto di vista, che sia una bolla o no, mi piace pensare che sono tante persone che si stanno avvicinando ai processi della rete, ai processi virtuosi della rete. Che ci sia un certo entusiasmo in particolare verso alcuni strumenti è un fatto, e anch'io ho vissuto la bolla del 2000 e sono sempre molto scettico, sono abbastanza prudente, sono in genere abbastanza, come dire, mi appassiono poco ai singoli strumenti. Non, guardi più la cosa dal globalmente. Nova Lab 24. Torniamo in trasmissione, allora, giustamente... Dello Iacovo adesso ne dice 4, eh? No, più che dirne 4, possiamo raccontare anche un'altra cosa che è meno nota, magari a chi segue internet, cioè c'è un altro social network che non è tanto famoso quanto lo è Facebook, non ha appunto una gran quantità di seguaci nel mondo dei giornalisti, però è un fenomeno consistente soprattutto in Italia e in Inghilterra, che è Badoo, e che è frequentato soprattutto dai giovani. E quindi dimostra anche che... Dov'è che si trova, tra l'altro? Com'è che si raggiunge? L'indirizzo qual è? L'indirizzo... lo troviamo subito. Lo diamo poi su Facebook, okay, e su Twitter. Su Twitter. Però Badoo appunto è partito in Inghilterra, dall'Inghilterra poi si è diffuso in Europa senza appunto pubblicità, senza che se ne parlasse molto. Che cosa ne pensate di questo social network che comunque è riuscito a prendere piede anche senza entrare in una grande discussione collettiva? Due risposte rapidissime. Prima Maestrello. Ma sono curioso, anche qui fa parte dei grossi social network, dei social network emergenti, che più o meno si contendono alcune fasce di popolazione, fasce d'età in particolare. Rispondo più o meno come prima, nel senso, vinca il migliore, l'importante è che sia una porta d'accesso per persone in più. Cosenza. Sì, è molto diverso da Facebook, che mentre Facebook serve a, come dire, consolidare nuove amicizie, Badoo è più che altro una bridging community, cioè serve a fare nuove amicizie, quindi se vogliamo... Ma non è un sito di dating, no? Beh, si avvicina molto anche a quello, ecco, con la volontà di fare nuove amicizie, chiaramente poi può sfociare anche in altro, quindi è fondamentalmente un luogo in cui si esprime molto la propria personalità, con foto anche ammiccanti, e anche spesso nascondendo, cioè, la propria identità. Cioè, una cosa luci rosse, fatemi capire. Beh, no, non proprio. Dello Iacovo. No, non è una cosa. No, per nulla. Soldavini, tu non l'hai visto, però, che ci ha raggiunto ora e sta guardando la partita distratto. Sono distratto. Lo conosci, Badoo? No, non lo conoscevo. Neanch'io. Io sai, mi tengo a debita distanza, sì, è vero, come tu già sai. Che tu non vai, cioè, non frequenti. Frequenti la carta, però, perché domani in edicola Nova 24, Sole 24 Ore, l'inserto di Scienza e Tecnologia dedicato al mondo dei videogame, la società dei balocchi. balocchi. La società dei balocchi, che è un po' una cosa ancora meglio del paese dei balocchi, nel senso che mi sembra di capire che, perché poi me lo spieghi tu, perché l'hai scritta tu, sì, è vero. Sei andata a Los Angeles tu, l'abbiamo mandato noi lì a capire come si sta evolvendo il videogioco, che è una roba che ormai sta diventando tecnologicamente molto avanzata, sì, ci sono nuove frontiere. L'idea è che questi strumenti, soprattutto le novità presentate, Kinect, Move e la nuova Nintendo 3DS, stanno diventando così interessanti e sofisticate dal punto di vista tecnologico da diventare degli strumenti di autoconoscenza, mi viene da dire, nel senso che gli studiosi di interazione uomo-macchina si divertiranno molto nei prossimi anni. Non svelo nulla, lasciamo basta tutto. Basta sapere che tu per un giorno sei stato lì che sembravi un bambino. Per un giorno, io sono sembravi un bambino a raccontare tutto quello che avevi visto. Io mi sono divertito con un bambino e molta parte della mia generazione si divertiranno come dei bambini. Noi invece non ci divertiamo, ci fermiamo qui, diamo l'appuntamento alle 16:30, l'aggiornamento sul mondiale, Nova Lab 24, un saluto. Ciao a tutti. Clicca linear.it ed entra nella tribù. Linear, assicurazioni in linea con te. Vi ha presentato Nova Lab 24.